Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 196 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana parleremo di medicina, rianimazione, ma anche e soprattutto di statistica. Cari ascoltatori, correva l'anno 2009, in particolar modo era il 9 febbraio del 2009 e in quella data moriva una donna salita agli onori della cronaca suo malgrado a causa di un incidente stradale che l'aveva costretta a letto per più di 17 anni. Questa donna si chiamava Eluana Englaro e sicuramente tutti voi ricordate le battaglie di libertà di cura che il padre Beppino tenne praticamente ovunque, sia rilasciando interviste ai giornali, sia rilasciando interviste in televisione. Insomma, questo dibattito tenne banco per tanti e tanti mesi ed è ancora una volta un paper scientifico che si occupa di questo caso, in particolar modo cercando di capire in che modo effettivamente l'informazione scientifica passava in quel periodo sui giornali, se passava effettivamente un'informazione corretta oppure no. E questo paper è stato pubblicato qualche giorno fa su PLOS ONE e si intitola Quality of Reporting on the Vegetative State in Italian Newspapers, The Case of Eluana Englaro. Il primo autore è il professor Nicola Latronico, professore associato di anestesia e rianimazione presso l'Università di Brescia. Buongiorno Nicola. Ciao Fabio, buongiorno. Nicola, ti lascio rapidamente la parola per le 100 parole iniziali con cui introduciamo questa puntata di Cacciafotone e poi andremo a guardare meglio il dettaglio nel corso della trasmissione. Come correttamente hai notato, spesso di stato vegetativo si parla sui giornali. L'informazione non sempre è adeguata. Questo non è un riferimento ai giornali o ai giornalisti italiani, ma ci sono, come dire, delle evidenze che sia così un pochettino in tutto il mondo. Quello che noi abbiamo voluto vedere è se, innanzitutto, parlando dello stato vegetativo, i giornalisti si sforzano di far comprendere alle persone che leggono che cosa sia realmente lo stato vegetativo, perché il punto di fondo è esattamente questo. Dello stato vegetativo noi parliamo per le implicazioni morali, per le implicazioni religiose, per le implicazioni di carattere legale. Tuttavia io credo che sia importante avere un'idea chiara di che cosa sia quella condizione prima che uno poi possa farsi un'idea personale al riguardo di questi temi veramente, veramente importanti. E quello che noi abbiamo fatto è di mettere a punto un punteggio, una scala che abbiamo creato e condiviso da una serie di esperti di varie università sia europee che nordamericane, e abbiamo voluto utilizzare, diciamo, questo score per classificare non come dire la correttezza, ma la completezza dell'informazione. Questa è la prima volta che viene fatto, l'abbiamo fatto in quattro giornali italiani, l'abbiamo fatto nel Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e Avvenire. Quattro giornali che abbiamo scelto perché i primi tre sono, diciamo, i tre giornali più letti in Italia, e il quarto perché è il maggior giornale cattolico in Italia. E questo è quello che abbiamo fatto e i risultati, devo dire, offrono spunti per la riflessione, nel senso che poche volte gli articoli sono dedicati agli aspetti medici, quindi, come dire, i giornalisti non ritengono prioritario spiegare alla gente che cosa sia, probabilmente perché ritengono che la gente lo sappia già, e quando ci provano o da soli o anche con l'aiuto di esperti, non sempre il risultato è molto buono. Questa è l'estrema sintesi. Nicola, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire che cos'è effettivamente lo stato vegetativo, mentre nella seconda parte della trasmissione affronteremo l'argomento che poi ha portato alla vostra ricerca e alle vostre conclusioni pubblicate su questo paper. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Musicale che abbiamo scelto di presentarvi all'interno della 196esima puntata di Calciafotone si chiama Victoria Café e il pezzo musicale che vi state ascoltando nella coda, il primo pezzo musicale scelto, si intitola Grandetti. Intanto, cari ascoltatori, di nuovo benvenuti in studio. In questa puntata ci stiamo occupando del caso di Eluana Englaro, ce ne stiamo occupando più che altro dal punto di vista mediatico, cercando di capire come è arrivata l'informazione scientifica verso il pubblico, e ce ne stiamo occupando col professor Nicola Latronico, professore associato di anestesia e rianimazione presso l'Università di Brescia. Ecco, il professor Latronico è primo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa su Plus One che si occupa appunto di questi argomenti. Per capire meglio però l'argomento e soprattutto per immergerci all'interno di quell'humus che sviluppò quel dibattito che prese piede sui media tradizionali in quel periodo, dobbiamo tuffarci indietro nel tempo, Annus Domini 2009. Ha avuto un incidente stradale, era una giornata molto gelida, era di prima mattina, stava rientrando e in una curva, dato che la strada era gelida, in un testacoda è andata a cozzare contro un muro. Attesa per la sentenza della Cassazione sul caso Eluana Englaro, in coma, lo ricordiamo, da 17 anni. Il corpo di Eluana manda segnali, il più grande è la ripresa del ciclo mestruale. Una persona che potrebbe anche, in ipotesi, generare un figlio. L'articolo 2 dice che l'attività medica non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari. Una preghiera, un pensiero scritto a mano, una candela accesa per illuminare il cammino è il tributo a Eluana della gente comune. Nicola, cominciamo dall'inizio. Dal punto di vista di definizione, che cos'è lo stato vegetativo? Diciamo, lo stato vegetativo è una condizione in cui il paziente non ha nessun contenuto di coscienza, cioè non ha alcuna consapevolezza né di se stesso né dell'ambiente che lo circonda. Tuttavia mantiene uno stato di veglia, che vuol dire che ha gli occhi aperti, ed ha una serie di attività riflesse, appunto vegetative, per esempio respira da solo, il suo intestino funziona, quindi può essere alimentato e così via. Questa è la definizione clinica di stato vegetativo. Nicola, prima di entrare all'interno degli argomenti e soprattutto delle statistiche realizzate all'interno del vostro paper, vorrei capire esattamente come si tratta lo stato vegetativo in paesi come il nostro, oppure in paesi come gli Stati Uniti o in paesi come gli stati nord europei. Beh, intanto diciamo che lo stato vegetativo è la conseguenza di eventi drammatici, di malattie acute del cervello. Ecco, le due cause più importanti sono i traumi cranici e l'arresto cardiaco. E sono due condizioni molto diverse, cioè entrambe possono portare allo stato vegetativo, ma l'arresto cardiaco, se porta allo stato vegetativo, ha una prognosi decisamente peggiore che non lo stato vegetativo conseguente ai traumi. Anche il trattamento deve tener conto di quale sia stata la causa dello stato vegetativo. Il trattamento ovviamente è molto molto diverso a seconda che un paziente abbia avuto un trauma e quindi nella fase acuta è stato ricoverato in terapia intensiva o invece abbia avuto un arresto cardiaco. Di fatto oggi si dice che un paziente sia definitivamente vegetativo se è passato un anno da un trauma oppure 3-6 mesi da un arresto cardiaco. Quindi se uno non si è ripreso dopo questo intervallo, si dice, ma sottolineo il si dice perché è un punto di grande discussione, che non ci sono ulteriori chance e quindi è inutile continuare a trattarli. Prima di questo periodo, sia prima di un anno e prima dei 3-6 mesi rispettivamente le due condizioni, il trattamento di questi pazienti è la riabilitazione. Una riabilitazione che però è una riabilitazione prevalentemente fisica, proprio perché essendo, tra virgolette, vegetativi, non possono avere un'interazione con l'ambiente. Nicola, il caso di Eluana Englaro, e non ce lo nascondiamo, è un caso che ha intersecato molte categorie, praticamente ne parlavano tutti, ne parlavano giornalisti, ne parlavano politici che comunemente non sono esperti di medicina, ne parlavano sacerdoti, ne parlavano scienziati, praticamente ne parlavano tutti. La domanda che ti voglio fare a questo punto è questa: effettivamente lo stato di Eluana Englaro qual era? E di fatto era così come te lo descrivevo, cioè il neurologo, che è quello che l'ha seguita più a lungo, perché io non ho mai avuto occasione di visitarla personalmente, il neurologo che si chiama De Fanti, che è una persona, devo dire, molto molto preparata su questo argomento, ciò che ha attestato l'eventuale presenza di segni di coscienza di questa ragazza e non li ha mai documentati. Una ragazza che, ripeto, non aveva nessun segno di coscienza, aveva gli occhi aperti e per il resto aveva una serie di funzioni che le permettevano di sopravvivere, per esempio respirava da sola e poteva digerire gli alimenti che le venivano somministrati con il sondino. Devo dire però che uno dei problemi, ecco, se vuoi ne accenno già adesso, riguarda la diagnosi clinica di stato vegetativo. Cioè, clinicamente tu fai diagnosi di stato vegetativo, ma la ricerca oggi dimostra che in una percentuale di questi pazienti, probabilmente piccola, ma non sappiamo esattamente quanti, queste persone sono comunque coscienti anche se tu non riesci a documentarlo con un esame puramente clinico. Cioè, diciamo meglio che lo stato fisico non corrisponde esattamente allo stato mentale, cioè il cervello funziona mentre il corpo non reagisce agli stimoli. Sì, diciamo di sì, ecco, perché di fatto è quello che è il problema, che oggi viene chiamato quello della coscienza interna, no? Se tu pensi al termine coscienza, questo è stato coniato, diciamo, qualche secolo fa e letteralmente vuol dire cum scio, cioè condivido con qualcuno, come dire che per noi uno è cosciente se in qualche modo lo vediamo interagire con l'ambiente, se non interagisce con l'ambiente, in qualche modo poi ne deriviamo che queste persone non sono coscienti. E così è nella stragrande maggioranza dei casi. Di recente, però, diciamo negli ultimi 10 anni, si sono rese disponibili delle tecniche sia di neurofisiologia clinica, sia di neuroradiologia, risonanza magnetica per intenderci, risonanza magnetica funzionale, che fanno vedere come alcuni di questi pazienti, ripeto solamente alcuni, quindi non è il caso di Eluana Englaro, ma questo è ciò che crea il problema, alcuni di questi pazienti che clinicamente sono vegetativi, tuttavia esibiscono segni di coscienza quando vengono esplorati con delle metodiche più sofisticate. E allora Nicola, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un altro piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio affronteremo specificatamente l'argomento del vostro paper, cercando di capire quali sono i risultati a cui siete arrivati. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Voice on the radio, it checks, soon I'll be gone. Sunrise, storm and a rainbow, soon we'll be home. Having a smoke on the ocean drive, just like I expected. Bodies in motion, fancy cars, color of passion. Slowly, with no lady with me, and they got too much to show. Wet ebb and skin, love potion, and great expectations. Bentornati in studio, cari ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Cacciafotone. In questa puntata in cui ci stiamo occupando non tanto di scienza ma di comunicazione scientifica, e ce ne stiamo occupando col professor Nicola Latronico, professore associato di anestesia e rianimazione presso l'Università di Brescia. Ecco, il professor Latronico è primo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa su Plus One, e in particolar modo in questo paper si cerca di analizzare la comunicazione scientifica sui giornali generalisti, in particolar modo su 4 giornali generalisti italiani, sul caso Eluana Englaro. Insomma, in qualche modo si cerca di capire come giornali così importanti come il Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica e L'Avvenire abbiano trattato un argomento così importante come lo stato vegetativo sulle loro pagine. A questo punto, Nicola, la prima domanda che ti voglio fare è: qual è la tecnica con cui avete analizzato questi articoli? Ok. Allora, diciamo, la prima fase è stata quella di mettere a punto una scala di valutazione, perché una scala di valutazione non esisteva. E quindi abbiamo collaborato con una serie di ricercatori dell'Università di Cambridge, dell'Università di Liegi in Belgio, di Tübingen in Germania e di Montreal in Canada, proponendo, diciamo così, degli aspetti che a parere di questo gruppo dovessero essere assolutamente riportati perché la descrizione medica di un paziente vegetativo potesse essere ritenuta completa. E questo, diciamo, score lo abbiamo chiamato CORE, dalle iniziali di consciousness, quindi la coscienza, eyes open, occhi aperti, e spontaneous respiration, la respirazione spontanea. In sostanza, alla fine, diciamo, di questo primo stadio, si è ritenuto che un articolo scritto da giornalisti che voglia descrivere come è un paziente vegetativo deve perlomeno specificare queste 3 cose, e cioè com'è la coscienza di questo paziente, e quindi descrivere che è assente, descrivere il fatto che invece questi pazienti mantengono uno stato di veglia, quindi hanno gli occhi aperti e che respirano spontaneamente. Questi sono aspetti importanti perché, per esempio, negli Stati Uniti, in un caso abbastanza simile che quello di Terry Schiavo, Terry Schiavo, come dicono gli americani, ad un certo punto la polemica è esplosa quando hanno fatto vedere un video di Terry in cui Terry apriva gli occhi e si guardava intorno. E quindi la gente, come dire, o almeno alcuni gruppi di persone hanno cominciato a diventare sempre più scettici circa il fatto che quella paziente fosse vegetativa. Questo perché? Banalmente perché la gente non sapeva e spesso non sa che il paziente vegetativo apre gli occhi. Ecco, quindi, che è una delle tre caratteristiche di questa scala di valutazione. Abbiamo creato la scala di valutazione, dopodiché siamo entrati, diciamo, nel sito di questi quattro giornali. Utilizzando apposite parole chiave abbiamo scaricato tutti gli articoli che parlavano, che avevano, diciamo, la parola vegetativo oppure luano oppure englaro in qualsiasi parte, nel titolo o nel testo, li abbiamo stampati tutti quanti e abbiamo via via selezionato gli articoli che erano dedicati allo stato vegetativo. Direi che questo è il primo punto, cioè se si guarda i numeri di quasi un migliaio di articoli che noi abbiamo analizzato, solamente una piccola parte, 61, era dedicato agli aspetti medici dello stato vegetativo. Quindi il primo punto che noi abbiamo realizzato è che l'aspetto medico interessa poco i giornalisti, o meglio, i giornalisti pensano che possa interessare poco alla gente. Le spiegazioni di ciò ovviamente sono speculative, non le so, ma è ragionevole pensare che ciò sia, come dire, dovuto al fatto che la gente lo sa già cos'è lo stato vegetativo, oppure che la parola vegetativo sia essa stessa self-explaining, no? Uno che è vegetativo lo sappiamo cos'è, quindi è inutile star lì a spiegare le cose. Questo però è un primo dato importante. Peraltro c'è una ricerca, l'unica altra fatta negli Stati Uniti, pubblicata un paio d'anni fa su Neurology, da un gruppo di Montreal che è lo stesso con cui poi noi abbiamo collaborato, e trova percentuali molto simili. Ecco, noi abbiamo trovato circa il 6%, loro circa il 9%. Quindi un po' in tutto il mondo gli aspetti medici non sono la cosa più stimolante. Lo sono invece gli aspetti legali, gli aspetti etici e così via. Quindi, Nicola, restando un attimo sul metodo, un motore l'avete utilizzato solo per estrarre gli articoli attraverso alcuni opportunity tag, ma effettivamente poi l'analisi degli articoli, quindi la correttezza degli articoli, l'avete fatta singolarmente, caso per caso, articolo per articolo? I paper sono stati analizzati uno per uno e in realtà in duplicato, quindi due diciamo raters, come vengono chiamati in gergo, hanno analizzato ciascuno separatamente, ciascuno degli articoli, esprimendo un punteggio di completo oppure incompleto per ciascuno di questi articoli. Dopodiché sono state confrontate, diciamo, le percentuali di agreement, quante volte i due raters esprimevano lo stesso parere. E quando questo non succedeva, quindi nei casi di disagreement, interveniva un terzo rater esterno che si assumeva la responsabilità di giudicare quell'articolo come completo o incompleto. E questo ha garantito in sostanza che l'applicazione dello score fosse facile, perché uno score deve essere facile, e che nello stesso tempo fosse precisa. Quindi che variasse poco, che non variasse, diciamo così, in dipendenza di chi lo utilizzava. Questa è stata la prima fase. Quindi avete applicato il metodo scientifico, cioè quello che si fa normalmente in letteratura scientifica per articoli di pubblicazione comune, di giornali comuni. Esattamente così. Diciamo che nel campo biomedico questa è una pratica abituale, è il campo, per intenderci, di quelle che vengono chiamate le revisioni sistematiche della letteratura. Cioè ci sono degli esperti che in maniera sistematica riguardano per esempio un campo e in quel campo riguardano tutti gli articoli pubblicati e ne valutano la qualità metodologica in accordo con delle scale che sono state messe a punto. E noi abbiamo in qualche modo adottato questa metodologia, che è molto molto rigorosa, in un campo diverso, che è quello degli articoli pubblicati su testate giornalistiche. Senti, all'inizio hai citato i giornali su cui avete fatto effettivamente l'analisi. Ti sentiresti di fare una classifica fra quello più rigoroso, quello meno rigoroso, insomma il migliore e il peggiore? No, diciamo, noi non abbiamo trovato differenze significative fra questi quattro giornali, né nel numero di articoli dedicati agli aspetti medici, né nella loro qualità metodologica, nella loro completezza. C'è da dire che un problema dei test statistici è questo, che quando tu hai un risultato negativo, non lo sai se è veramente negativo oppure se avevi troppi pochi articoli da giudicare. E alla fine sono rimasti pochi articoli, perché come ti dicevo, di 900... quasi 1000 articoli, quelli dedicati allo stato vegetativo erano solo 61. Diciamo che formalmente non vi erano differenze statisticamente significative all'interno delle quattro testate esaminate. Quindi il grosso del lavoro è stato, a partire dai 967, valutarli tutti per accorgersi, ahimè, che solo 61 di questi erano dedicati agli aspetti medici. Gli altri sono stati semplicemente classificati, non sono stati analizzati in dettaglio se non nelle frequenze. Però diciamo che politico, legale ed etico sono stati quelli prevalenti nella maggior parte dei giornali, in 3 dei 4. In Avvenire anche gli aspetti personali sono stati particolarmente diciamo così, esplorati. Da quando è partita la raccolta di dati? Ci sono voluti, ci è voluto circa un anno, un po' più di un anno. Lo abbiamo sviluppato per una tesi di laurea, cioè ne abbiamo approfittato perché fosse una tesi di laurea in medicina. Infatti, due dei quattro autori sono due studenti di medicina. Una adesso, Ottavia, non è più studente perché nel frattempo si è appunto laureata. Quindi abbiamo impiegato, fai conto, circa un anno per realizzare la ricerca e per realizzare la tesi di laurea. E poi ci è voluto ancora un anno per pubblicarlo, perché insomma è un argomento che è molto molto delicato e non è facile pubblicarlo. E per quanto riguarda invece i limiti del lavoro, del metodo che avete utilizzato per scandagliare, per analizzare, per guardare la correttezza degli articoli, quali pensi che siano i limiti intrinseci di questo lavoro? Insomma, come credi che questo lavoro potrebbe essere migliorato nel futuro? Cioè, il primo limite direi che è il metodo che noi abbiamo utilizzato per trovare gli articoli, che è stato diciamo ciò che il sito web di ciascun giornale metteva a disposizione, e questo naturalmente poteva creare delle differenze tra una testata giornalistica e l'altra, per essere un metodo più sensibile per un giornale e meno sensibile per l'altro. L'altro limite e la generalizzabilità di questi risultati. Noi l'abbiamo visto in questi quattro giornali e non è detto che ciò valga per tutte le testate giornalistiche italiane, anche se occorre dire che insomma sono quattro giornali la cui diffusione è molto molto ampia. Però direi che questi sono i due limiti più importanti. Nicola, vado con l'ultima domanda di questo blocco all'interno di Cacciafotone, quindi ti faccio una domanda che è del tutto personale. Lo so, normalmente a uno scienziato, soprattutto a un medico, non si dovrebbe mai fare una domanda personale che implica, come dire, delle valutazioni che non sono scientifiche, però io te la faccio lo stesso. Che cosa ne pensi tu personalmente del caso Eluana Englaro? Se devo, posso appellarmi al quinto emendamento? Ne hai facoltà. No, devo dire che tu correttamente anticipi il fatto che questa sia una domanda personale, e quindi anche la risposta, secondo me, che è personale, conta poco, perché è il parere, in questo caso non è l'uomo di scienza che dovrebbe rispondere, la persona. E io personalmente questo vorrei evitarlo, ecco, vorrei evitare di esprimere un parere personale nella discussione di un articolo scientifico. E allora ci lasciamo col quinto emendamento. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi pronti per la domanda Zainetto. A dopo. Grande. Giove. Bentornati in studio, cari ascoltatori. Siamo nella parte finale, conclusiva di Cacciafotone. Abbiamo chiacchierato per tutta la puntata col professor Nicola Latronico, professore associato di anestesia e rianimazione dell'Università di Brescia, e con lui abbiamo parlato del caso di Eluana Englaro. E a questo punto arriva, come nostro solito, la domanda Zainetto. E a questo punto ti chiedo, Nicola, quale delle tante cose salveresti di questo lavoro e metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portarti con te nelle prossime ricerche? Ma direi diverse cose. Prima di tutto la collaborazione con due studenti di medicina molto giovani, che è stata veramente positiva per l'entusiasmo di questi ragazzi. Devo dire che solo grazie a loro noi siamo riusciti a farla questa ricerca, perché altrimenti non saremmo riusciti. Questa credo che sia la cosa che mi rimane più in mente. L'altra è il fatto di essersi dedicati ad un ambito di ricerca insolito per un ricercatore clinico. Non ci siamo occupati di malattie, di trattamenti, ma ci siamo occupati di come la stampa tratta l'informazione. E questo è stato molto molto istruttivo, perché ho imparato tante cose. Per esempio, ho imparato un termine inglese che non conoscevo, che si chiama newsworthy, che vuol dire riportare le cose nuove, no? E leggevo commenti di giornalisti di articoli scientifici, prevalentemente nordamericani, in cui citavano la tensione che esiste tra il newsworthy, cioè il voler riportare solo le cose nuove, e invece il voler descrivere quello che è il quadro complessivo. Questo è attinente ai risultati che noi abbiamo avuto, perché io sono sicuro che quegli articoli che non erano completi non lo erano perché i giornalisti non conoscevano il fatto, il dato, ma semplicemente perché non ritenevano quel dato una news e quindi non adeguata ad essere descritta, ad essere riportata. E questo perché, ripeto, nei giornali, nei quotidiani, vi è questa attenzione molto molto grande all'informazione che in qualche modo deve essere nuova e deve colpire. Ed è un approccio molto diverso, da quello del mondo delle scienze. Per me è stato molto istruttivo, confrontarmi, andare a leggere, cercare di capire il perché, le motivazioni di professionisti che per esempio hanno dimostrato di conoscere molto molto accuratamente il problema della coscienza interna, di tutti gli studi che io a cui io ho brevemente accennato. Quindi è gente che come te legge la letteratura, va a vedere gli articoli più importanti e parla di questi e basta, non li inserisce in una cornice più ampia, probabilmente perché non è newsworthy. Questa, direi che questo mondo, diciamo, dell'informazione è stata l'altra grande cosa che porto nel mio zainetto. Nicola, a questo punto ti ringrazio per la pazienza. L'appuntamento per tutti voi è alla settimana prossima, come al solito, sempre sulle frequenze di Cacciafotone, e l'augurio è il classico di buona scienza a tutti. Grazie Nicola. Grazie Fabio. Let's find out what is right. Let's have a war. Con chi stai parlando? Dici a me.